Economia in Europa. In collaborazione con Euronet. Il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, presieduto da Mario Draghi, ha deciso di abbassare il tasso di riferimento principale di Eurolandia di 25 punti base, portandolo allo 0,75%, al suo minimo storico. Le parole di Mario Draghi, che ha giudicato con favore i risultati del vertice europeo della scorsa settimana. Dopo le dimissioni di Bob Diamond, amministratore delegato della banca Barclays, andiamo a capire come le manipolazioni degli indici di riferimento per prestiti e mutui non avrebbero interessato solo il tasso Libor, ma anche l'euro. Libor, utilizzato per i finanziamenti nell'area euro. Infine, la riunione dell'Eurogruppo del 9 luglio che ha confermato le decisioni del vertice del 28 e 29 giugno. Sono questi i principali argomenti della settimana al centro di questa puntata di Economia in Europa. Giovedì 5 luglio il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, presieduto da Mario Draghi, ha deciso di abbassare il tasso di riferimento principale di Eurolandia di 25 punti base, portandolo allo 0,75%. È per la prima volta sotto l'1%. La BCE ha inoltre portato a zero il tasso sui depositi da quota 0,25. La misura avrà effetto dall'11 luglio. Martedì 3 luglio i depositi delle banche presso l'Euro Tower erano saliti al massimo degli ultimi due mesi. Sentiamo il commento di Alessandro Merli, corrispondente da Francoforte del Sole 24 Ore. Credo che i mercati si aspettassero il taglio dei tassi sul rifinanziamento alle banche di 25 punti base, il tasso principale che usa la BCE, e non si aspettassero tanto, o perlomeno erano divisi su questa questione del tasso sui depositi, perché la BCE lo ha fatto per togliere anche questo incentivo alle banche di ridepositare presso la stessa BCE i soldi che hanno la liquidità che hanno, e quindi remunerandole a zero probabilmente le banche dovrebbero essere spinte a prestare questi soldi o ad altre banche, rivitalizzando un po' l'interbancario che è pressoché paralizzato, oppure all'economia reale. Bisogna vedere se questa mossa basterà. Lo stesso Draghi è sembrato leggermente scettico, nel senso che poi ha ripetuto più volte che il fatto che non c'è credito è dovuto soprattutto al fatto che non c'è domanda di credito, e quindi non so se questo sarà una mossa sufficiente. Per quello che riguarda la reazione dei mercati in genere, mi sembra che più che alle questioni dei tassi, alle decisioni sui tassi, abbiano reagito al fatto che Draghi abbia detto che la crisi sta peggiorando e probabilmente è destinata a peggiorare ancora, cioè ha detto che si sono materializzati alcuni dei rischi al ribasso. Insomma, non è stato proprio ottimista sugli scenari dell'economia. Ma come influiscono queste decisioni nella vita quotidiana e in particolare nelle rate mensili dei mutui a tasso variabile? Sentiamo la spiegazione di Maximilian Cellino del Sole 24 Ore ai nostri microfoni venerdì 6 luglio. Chi ce l'ha già? Parliamo del variabile ovviamente. Ogni volta che la Banca Centrale Europea abbassa il tasso di interesse, come è avvenuto ieri, adesso i tassi sono proprio ai minimi storici, risparmia qualcosa. Chi non ce l'ha, chi ha un fisso ovviamente non risparmia niente perché è un tasso fisso, chi non ce l'ha continua invece ad avere problemi abbastanza importanti, perché chi avrà provato ad andare in banca si sarà visto chiedere, nonostante i tassi di base, l'Euribor per i variabili e l'IRS per i fissi siano ancora ai minimi storici, si sarà visto chiedere comunque dei tassi abbastanza elevati, perché le banche applicano un ricarico molto elevato, il cosiddetto spread bancario, che è ancora sopra il 3%. Questo è non è perché le banche sono cattive, è perché le banche è un risultato della crisi degli ultimi anni. Le banche fanno fatica a raccogliere il denaro, quando lo raccolgono, a un prezzo elevato, ed evidentemente quando lo girano alla clientela quel prezzo elevato rimane. Tornando al discorso dei risparmi, i risparmi sono sono abbastanza limitati per una serie di motivi, perché la maggior parte dei mutui è legata al tasso Euribor, che appunto si adegua a poco ai tassi di interesse. Non solo, ma si è già adeguato, perché il costo del denaro della BCE è lo 0,75 e ieri l'Euribor a tre mesi per esempio era lo 0,64, mi sembra lo 0,36, addirittura l'Euribor a un mese.

Non ci troviamo assolutamente come a quel tempo. Siamo in una situazione con crescita sostanzialmente a zero e continuiamo ad attenderci un lento avvio di ripresa a fine anno, anche se si sono materializzati i rischi al ribasso a carico dell'attività economica. Draghi ha inoltre parlato dell'indipendenza della BCE. Sentiamo. La BCE deve rimanere indipendente nel suo impegno di supervisore unico del sistema bancario. Ci aspettiamo che sulla proposta ci sia un forte impegno politico da parte dei leader europei. Qualsiasi proposta arriverà dalle istituzioni europee, questa deve poter mettere la BCE nelle condizioni di non avere rischi per la propria reputazione. I nuovi impegni dovranno essere separati da quelli di politica monetaria per evitare contaminazioni. La BCE lavorerà contando sui supervisori nazionali e questo è molto importante, anzi essenziale. Io stesso sono stato supervisore per 6 anni come governatore della Banca d'Italia. E so fin troppo bene la storia, le capacità e le tradizioni dei supervisori nazionali. The history and the traditions are at national level. Il governatore Draghi è tornato anche a giudicare con favore i risultati del vertice europeo della scorsa settimana, grazie al quale sono state gettate le basi per una unione più solida nel futuro per ristabilire la fiducia e avviare una crescita sostenibile. We welcome the European Council conclusions of 29th of June of 2012. Accogliamo positivamente le conclusioni del vertice del 29 giugno scorso sulle azioni da intraprendere per affrontare le tensioni del mercato, ristabilire la fiducia e avviare la crescita. Concordiamo sul fatto che l'unione economica e monetaria debba avere basi più solide in futuro. Una crescita economica sostenibile, conti pubblici a posto e riforme strutturali per aumentare la competitività restano le priorità. Accogliamo con favore anche la decisione di sviluppare una roadmap specifica per raggiungere una vera unione economica e monetaria. Riteniamo che sia positiva anche l'iniziativa che prevede la diretta ricapitalizzazione delle banche e l'uso delle FSF e delle ESM in maniera flessibile ed efficiente, allo scopo di stabilizzare i mercati. In a flexible and efficient manner in order to stabilize markets. Infine, una dichiarazione del presidente della BCE che ci porta al prossimo tema, il caso Barclays. Well, the LIBOR, I think there is an inquiry which is unfolding at the very same time we are speaking. Per ciò che riguarda la vicenda sul tasso LIBOR, c'è un'inchiesta in corso, ma devo dire che ha mostrato che un meccanismo considerato equo ed essenziale per il funzionamento dei mercati finanziari non lo era affatto. Penso che si debbano prendere delle misure per migliorare la governance di questo meccanismo, sia a livello di trasmissione dei dati, sia a livello di produzione del tasso di riferimento. È piuttosto chiaro che la governance era debole, se non mancante in entrambi i livelli. Sinceramente, non so cosa avrebbe fatto la BCE, ma spero che l'avrebbe fatto meglio. Frankly, I don't know what the ECB would have done, but I hope it would have done better. La scorsa settimana Bob Diamond, amministratore delegato della banca Barclays, la seconda del Regno Unito, si è dimesso dopo che la banca, da lui diretta, è stata multata per 451 milioni di sterline. L'accusa? Il tentativo di manipolare il tasso interbancario dei prestiti, LIBOR, indice di riferimento per calcolare il costo di 350 mila miliardi in prodotti finanziari. Le manipolazioni degli indici di riferimento per prestiti e mutui non avrebbero interessato solo il LIBOR, ma anche l'Euribor, utilizzato per i finanziamenti nell'area euro. Come il LIBOR, anche l'Euribor viene fissato giornalmente, facendo la media dei contributi di 40 banche, sono una ventina nel caso del LIBOR britannico. Dalle mail esaminate nell'inchiesta su Barclays emerge che anche questo tasso sarebbe stato quindi manipolato per avvantaggiarsi su alcune operazioni in derivati. Sentiamo la spiegazione di Fabio Pavesi delle Sole 24 Ore al microfono di Simone Spezia. Questo sospetto l'ha alzato la Commissione d'inchiesta americana, che nel lungo memorandum di 45 pagine dell'atto d'accusa verso Barclays, su cui poi hanno transato, parlava ovviamente anche di manipolazioni sull'Euribor. Tenete conto che, come dire, la formazione di questo tasso è deciso dalle stesse banche che lo applicano. Il nodo sta un po' nel manico, è come, cioè basta accordarsi tra virgolette tra le singole banche, sono 18 sull'AIBO e una quarantina sull'Euribo, sono i principali istituti mondiali, è sufficiente che questi trader, singoli trader, si accordino fra loro e ovviamente si riesce a definire un tasso che può far comodo a tutti, voglio dire, quindi non mi scandalizza che uno l'inchiesta è solo all'inizio. E lo stesso McDermott, che è il capo della vigilanza inglese, ha detto a chiare lettere che Barclays non agiva da sola e ha detto che sono indagati tuttora almeno un'altra quindicina di istituti, Citigroup, Deutsche, ma praticamente tutto il gotha delle banche mondiali. Ma questa, come dire, questa è l'ennesima lezione, arriva dopo il buco sui derivati di JP Morgan e non a caso io ho portato una tabellina che è molto divertente, elaborata dall'ufficio studi di Mediobanc. Le due principali banche mondiali con il più elevato ammontare di derivati erano proprio JP Morgan con 59.000 miliardi e Barclays con 56.000 miliardi. Tra l'altro Barclays ha elevato l'ammontare di derivati in circolazione del 24% anno su anno. Questo accadeva nel 2010. Il problema è che questi derivati comportano un rischio di credito elevato, cioè il derivato su volumi così alti, tu hai citato prima i 570.000 miliardi di tutto il mercato, immaginate di spostare, non dico di un punto, ma di un centesimo il valore dell'Euribor, dell'AIBO. A questo punto questo effetto di un centesimo, che sembra pochissima cosa, si riverbera su un volume di 570.000 miliardi e quindi quel punto in più e in meno, anche se fosse solo un centesimo, fa guadagnare o perdere alle banche che definiscono quel tasso milioni di dollari nell'arco di una sola giornata. Quindi c'è in gioco, come al solito, dopo lo scandalo Lehman, il grande buco nero della finanza, come dire, globalizzata, la grande finanza speculativa, in cui i derivati, su cui sono agganciati, a cui i due tassi di riferimento poi fanno da base, continuano a imperversare. Cioè, noi pensavamo che la crisi Lehman avesse risolto il problema e si parla di eurozona oramai da 2 anni a questa parte, ma anche qui un dato: negli Stati Uniti il valore dei contratti derivati è passato da base 100 nel 2008, quindi scandalo Lehman, è salito a 117 nel 2010, cioè 17 punti in più. E lunedì 9 luglio è tornato a riunirsi l'Eurogruppo, che ha confermato le decisioni del vertice del 28 e 29 giugno. Sul fronte anti-spread è stata resa operativa l'intesa del vertice europeo, che prevede che la BCE sia l'agente del Fondo Salva Stati e FSF e ESM per l'acquisto dei bond dei paesi sotto il tiro della speculazione per condurre operazioni di mercato in funzioni anti-spread. Decisioni importanti nei confronti della Spagna, con gli aiuti per le banche, 30 miliardi già a luglio. I fondi saranno erogati dal fondo EFSF sotto forma di prestiti fino a 15 anni. Il debito dello Stato salirà per poi ridiscendere quando entrerà in vigore il fondo successivo, l'ESM, una volta che la supervisione bancaria sarà affidata alla BCE. Ma lo Stato spagnolo non dovrà dare alcuna garanzia ai prestiti, come chiesto da alcuni paesi del Nord Europa. Il memorandum per gli aiuti alle banche sarà siglato all'Eurogruppo del 20 luglio. Alla Spagna è stato concesso anche un anno in più, a tempo quindi fino al 2014, per riportare il deficit sotto il 3%, ma dovrà adottare nuove misure per il consolidamento dei conti, specie sul controllo della spesa degli enti locali. Inoltre è stato riconfermato Jean-Claude Juncker come presidente dell'Eurogruppo per altri 2 anni e mezzo, anche se il nuovo mandato finirà a inizio 2013 per volere dello stesso Juncker. Sentiamo il commento di Daniel Gross del CEPS di Bruxelles. Secondo me l'accordo è stato molto importante, perché la prima volta i capi di Stato hanno riconosciuto che c'è anche il problema della tenuta dei mercati e hanno fatto un passo gigantesco in avanti, dicendo che vorrebbero avere un sistema di supervisione integrato con la banca centrale al capo. E su questo non c'è stato tanto discussione. I finlandesi, olandesi, a cui si riferiva Monti in particolare, hanno fatto come solito il gioco della politica interna. Quello lo fa chiunque, cioè tutti gli stati di capo quando tornano a Bruxelles parlano al loro pubblico nazionale. E per il momento non vedo nessuna crepa fondamentale, almeno nell'accordo che c'è stato.